Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La Barn House è un'idea provocatoria, come quasi tutte quelle che finiscono per aggiudicarsi il primo premio della The Next Generation Sustainable House, concorso di architettura organizzato dalla compagnia giapponese LIXIL, che ha come obiettivo proprio quello di rompere gli schemi tradizionali e farci riflettere. Ogni anno vi partecipano 12 università, tra cui il Politecnico di Milano, e l'idea che vince viene realizzata. L'anno prossimo vi parteciperà per il Politecnico di Milano il team del professor Marco Imperadori, che stasera è tornato a trovarci, è stato già altre volte con noi per parlarci di questa strana abitazione, la Barn House, che oggi esiste appunto fisicamente, essendo il progetto vincitore dell'edizione 2012 del concorso. Buonasera Marco Imperadori. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Marco, diciamo, sveliamo l'arcano, qual è, diciamolo subito, la caratteristica saliente di questa Barn House? Allora, innanzitutto la Barn House è l'esito realizzato del progetto vincitore del concorso appunto 2012, progettato dal gruppo del professor Darko Radovic insieme ai suoi studenti della Keio University. L'arcano è subito svelato, si tratta di una casa stalla, nel senso che è una casa in cui convivono 2-3 abitanti più 2 cavalli. Più 2 cavalli, che hanno, diciamo, il piano terra a loro disposizione. Che hanno il piano terra a loro disposizione, l'entrata è comune, tra l'altro la competition è a Hokkaido, quindi l'isola diciamo più a nord del Giappone, quindi quella più fredda, che però è famosa per 2 cose: la forte presenza di foreste, quindi un'economia basata sul legno, e poi la presenza di questi cavalli bellissimi, sia allo stato brado che come allevamento, e quindi in realtà è un progetto estremamente local, nel senso della gestione. Uno dice, vabbè, i cavalli serviranno come mezzo di trasporto. No, invece. No, i cavalli servono proprio perché loro innanzitutto producono molto calore latente, sono all'interno di questa stalla, e tra l'abitazione e la stalla c'è una comunicazione visiva, c'è una finestra, dal soggiorno si vedono i cavalli belli, meno belli da annusare i cavalli, questo è il motivo, sicuramente, credo. Okay. Sicuramente, però belli da vedere. Degli escamotage per questo, perché la stalla innanzitutto è dotata della presenza di una controparete in carbone ottenuto dal recupero della segatura, delle segherie appunto della locali. Regione locali, sì, e questo carbone assorbe l'umidità e anche l'ammoniaca, quindi parte dell'odore che arriva dal cavallo, che poi nella buona stagione appunto questo materiale viene messo all'esterno e viene messo a respirare. Ecco, diciamo che assorbe proprio anche l'urina del cavallo, no? Sì. Dopodiché viene messo fuori al sole e essicca, e che cosa ci si fa di questo? A questo punto può bruciare meglio se si decide di bruciarlo, quindi di produrre energia, oppure può essere utilizzato come fertilizzante o anche per sciogliere la neve che appunto è molto presente, può essere questa. Un problema. Benissimo. Quindi in questo caso viene usato per questo. Fantastico, e qui siamo alle parti, diciamo, liquide. Andiamo alla parte un po' più solida che produce il cavallo, che è il sistema di riscaldamento della casa praticamente. Sì, in realtà il cavallo con le sue deiezioni produce il calore della casa, cioè le deiezioni fermentano, appena escono hanno una temperatura e si raffreddano all'aria che va a 14 gradi, ma nel fermentatore, c'è proprio una stanza per il compost, il fermentato per le deiezioni, in una settimana, meno di una settimana, vanno a 65 gradi, e c'è uno scambiatore di calore a piastre, ad acqua evidentemente. Ogni 10 giorni bisogna mischiare questa... Bisogna rimescolare il tutto e fare un refill, aggiungere... E fare un refill ogni 30 giorni, 40 okay, giorni. In sostanza l'edificio così è equilibrato. Si riesce a ottenere il calore che scorre nel pavimento attraverso la fermentazione delle dieci dei cavalli. Naturalmente, ecco, diciamolo, è una casa molto efficiente quella in cui bastano 2 cavalli, insomma, per soddisfare il fabbisogno energetico. Però è possibile, no? Sì, è una casa molto efficiente perché è ben orientata, ha una facciata, diciamo, vetrata molto esposta al sud, che quindi capta energia, e è molto isolata. E quindi a questo punto questo poco calore, questa poca energia prodotta dai suoi abitanti è sufficiente a coprire il fabbisogno. Esattamente. Ecco, a un certo punto uno dice, però vabbè, ok, naturalmente non possiamo andare a vivere tutti con 2 cavalli in delle case quasi passive. Allora che cosa serve questo concorso? Come tutti i concorsi, è una forza provocatoria. Dopodiché la cosa interessante è capire che anche noi vicino alle nostre città in realtà abbiamo la presenza di stalle. A Milano, per esempio, vicino a Ponte Lambro, una è visibilissima dalla tangenziale. e quindi la possibilità di sfruttare magari questa energia in modo intelligente per alcune abitazioni vicine. Chiaramente appunto non andiamo a vivere coi cavalli e con le mucche, ma sfruttare situazioni che già ci sono. Dici quei grandi cumuli di letame che per esempio si trovano fuori dalle nostre periferie, che vengono intaccati una volta all'anno per la concimazione, sì, e per tutto il resto dell'anno potrebbero servire a fare acqua calda, no? Esattamente, potremmo inventarci e di immetterli in questi cicli interessanti di fermentazione energetica, di trasformazione della materia che ci possono dare energia. Grazie Marco Imperatore. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.